Ti ho incontrata ma tu non mi hai visto. Per in macchina è stato un attimo, ma il mio cuore si è come bloccato. O era fermo prima e ha ripreso a battere. Tante volte io l'ho immaginato rivedere te, che effetto mi farà. Però adesso che è capitato non importa più se sia stata colpa tua o mia. Eravamo quel che tutti sognano, che sembra esagerato ed impossibile, con il petto che sembra esplodere, che non serve altro in più per vivere, che potrebbe scomparire l'universo tranne noi, tranne sono chiamate tutte le lì,